Più in profondità troviamo il sottosuolo composto da argilla, formata da frammenti inorganici piccoli e leggeri che si compattano rendendo impermeabile il terreno. Sabbia, molto permeabile e inadatta all'agricoltura. E ghiaia, formata da piccoli sassi che lasciano filtrare l'acqua.